In un mondo così buio, a volte ci sentiamo un po' tutti incompresi. In ognuno di noi c'è una piccola dose di follia. Ma in alcuni casi, tipo il mio, viene a domandarsi perché nessuno di noi accetta di sentirsi dire la verità. Tutti i giorni noi viviamo in una realtà che ci fa paura. Ma io sono qui per raccontarvela. A volte ci chiudono la bocca dicendo che portiamo sfortuna, oppure siamo semplicemente matti. Il mio mondo parallelo parte da qui. Perciò ragazzi, separatevi, perché sono queste le strade senza luce.